24 mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 17 minuti e 20 secondi inizia la terza parte di 24 mattino di questo venerdì 8 maggio. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo da Simone Spezia e Maria Latella, eccoci, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Simone. E questa mattina devo dire che né le Figaro né il Times danno notizie diverse da quelle che i giornali italiani davano 10 giorni fa, cioè adesso si riparte con la fase 2 in Francia, ci sono come al solito polemiche, dubbi, molti dubbi su come sarà questa fase 2, e la Francia divisa in due zone, quella verde e quella rossa. Mentre in Gran Bretagna il lockdown prosegue, e vi ricorderete che Boris Johnson all'inizio sembrava voler tenere aperto tutto, invece adesso continua a tenere chiuso tutto fino ai primi di giugno. Sì. Ma la lunedì illustrerà le linee guida per la cosiddetta fase 2 britannica, o quantomeno per avere un'idea di quello che succederà nelle prossime settimane. Ma tutti, Maria, prevedono che fino ai primi di giugno tutto rimanga così com'è in Gran Bretagna. No, invece mi sembra che una facile previsione, a proposito delle previsioni di cui parlavate prima con Paolo Mieli, una facile previsione si possa fare invece sulla politica italiana, perché dopo i messaggi che sono arrivati attraverso molti articoli dei quirinalisti sul fatto che, guardate, se questo governo Conte non dovesse reggere, ci sono le elezioni, con mascherine o non mascherine, ma si andrà alle elezioni. Mi pare che, come dire, tutto si sia ricomposto, si trova un accordo sui braccianti. Curiosamente si sono placati gli anni, anche perché ieri mattina in un'intervista a Sky TG24 il segretario del Partito Democratico, che è poi il partito che tiene davvero in piedi insieme al Movimento 5 Stelle questo governo, ha detto esattamente la stessa cosa che era filtrata negli articoli dei quirinalisti. E dunque le acque si sono calmate. Certamente ci sarà da qui alle prossime settimane sempre un tentativo di Italia Viva di far sapere che è appunto in azione viva, però il punto è che le mediazioni si sono viste proprio plasticamente ieri. Sì. E resta il grande di quello dei margini di manovra di un'opposizione segnata della Lega, che spera sempre nella sponda di Matteo Renzi, ma tutte le volte viene sedotta e abbandonata. Sì, in qualche modo sì. Lo abbiamo raccontato ieri, abbiamo detto anche in rassegna stampa, abbiamo letto l'articolo nel quale raccontava del fatto che Matteo Renzi avrebbe gettato un amo a Matteo Salvini sulla vicenda di Alfonso Bonafede, sulla vicenda del ministro, dicendo, insomma, facendo filtrare attraverso i giornali, come al solito sono le solite indiscrezioni che circolano, se Salvini scrive bene la mozione di sfiducia noi potremmo anche votare. Non l'ha mai detto, forse è stato fatto filtrare, e insomma per il momento è un po' come quelle ragazze che dicono, la Lega pare aver abboccato, ecco, quelle ragazze che dicono se ti comporti bene un giorno uscirò con te, e rimangono sempre lì sullo sfondo del se ti comporti bene. Poi si resta amici, insomma. Io penso che ai nostri ascoltatori non ci si fidanza mai. Allora, ai nostri ascoltatori questi minuetti, questi giochetti della politica veramente hanno un po' stancato. Abbiamo talmente cose serie di cui pensare che aver trovato oggi un titolo, mi pare su Repubblica, per la serie nell'accordo che si dovrebbe trovare tra un partito che è comunque in maggioranza, Italia Viva, e il governo, c'è la prescrizione, mi ha fatto fare un salto sulla poltroncina. Ma come? Abbiamo un problema gigantesco di aziende che forse faticheranno a riaprire, e torna il tema della prescrizione. Maria, posso dirti una cosa? Non è che la politica si può occupare, voglio dire, ci si può anche occupare di due cose alla volta, non è che un problema problema, esclude l'altro, però insomma questo siamo divisi evidentemente. Abbiamo sì. Veramente un'urgenza su questo assoluta. Non c'è, ma su questo siamo perfettamente d'accordo e sarà d'accordo anche Brunello Cucinelli, imprenditore che è in linea con noi. Cucinelli, buongiorno, eccoci. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, come andiamo? Come va l'azienda? Come vanno le cose? State riprendendo? Avete ripreso? Ma sì, sì, diciamo che abbiamo ripreso da qualche giorno e il primo giorno è stato abbastanza emozionante perché veniamo da un periodo di dolore, un po' impauriti, no? Quindi emozione, siamo arrivati tutti con le mascherine, non si può parlare perché stando a 3 metri è difficile parlare, no? Poi si misura la temperatura, si fanno i 2 test il mattino e quindi diciamo c'è il cestino per il pranzo. Abbiamo la fortuna di essere in campagna, c'è molte finestre aperte e il cielo è bello, quindi diciamo non male, anche il clima ci aiuta. Quello che si respira dentro l'azienda è tantissimo garbo, tanto rispetto, chiaramente c'è più silenzio, ma siamo anche timorosi. E come dicevo l'altro giorno ai ragazzi, Tommaso Moro ci dice: oddio mio, aiutami ad accettare ciò che non posso cambiare, aiutami a cambiare ciò che posso cambiare. Quindi dobbiamo prenderla così. Maria. Senta Cucinelli, lei ha scritto una lettera del Tempo Nuovo e in questa lettera c'è molto ottimismo su quello che secondo lei questa esperienza drammatica, pesante, potrà insegnare a tutti noi umani. Io però, e lo dicevo proprio poco prima, penso a chi si sta fronteggiando drammaticamente il fatto che lo chiamano e gli dicono guarda, non c'è più lavoro per te perché devo chiudere il mio ristorante, devo chiudere il mio negozio da parrucchiere, oppure, come è successo anche nel lusso, la notizia è di ieri, chiudono i grandi magazzini, quelli che erano il concentrato del lusso americano Neiman Marcus, hanno chiuso 43 negozi. La crisi certamente non è solo italiana, anzi negli Stati Uniti è pesantissima. Però appunto le chiedo, lei pensa che da questa crisi usciremo migliori, ma che cosa può dire a quanti in questo momento non si interrogano se usciranno migliori o peggiori, ma si ritrovano soltanto la lettera di licenziamento in mano? Sì, sono d'accordo con lei, ma io devo dire che appena successo, quando abbiamo chiuso il 15 marzo, la prima cosa che ho fatto, mi sono collegato con tutti, ho detto loro: ragazzi, noi non licenziamo nessuno, vi chiedo solo 2 cose speciali. La prima, se possiamo lavorare mezz'ora al giorno in più fino ad agosto, se possiamo fare i sabati mattina e se in agosto invece di fare 15 giorni di ferie ne facciamo 7. Devo dire che la risposta è stata molto affascinante e poi ho chiesto la cosa secondo me più importante: incontreremo gente impaurita, addolorata, che ha perso il lavoro e tutto. Quindi dobbiamo essere molto molto speciali, garbati, amabili, generosi. Dice Adriano Imperatore: non ho mai conosciuto qualcuno che dopo una coccola, un complimento, non si sia sentito migliore. Viviamo un momento addolorato e quindi abbiamo bisogno di questo. Sono abbastanza sicuro che non abbiamo bisogno di arroganza, questo è certo, no? Questo mai credo. Oh no, forse a volte qualche elemento di arroganza serve, però insomma, diciamo, forse non è il momento, Cucinelli. Allora, Solone nel 600 avanti Cristo dice: dal trono dell'arrogante, del tiranno, nessuno scende mai vivo. E questo vale per tutti, sempre nella vita. Allora, io sono convinto. Senta, sì. Mi faccia essere un po' più gretto rispetto a quanto alto abbiamo volato. Ieri sono usciti dei dati sul settore del lusso, che è il settore che riguarda la sua azienda. Un meno 25% nel primo trimestre, il secondo trimestre è previsto addirittura peggiore. È certo che in una fase di questo genere il rischio che beni come i vostri, insomma, non vengano acquistati o subiscano delle consistenti perdite c'è ed è forte, anche se di solito il lusso tiene un po' meglio in queste situazioni. Che quadro si è fatto? Che idea si è fatto per i prossimi mesi? No, guardi, io penso che abbiamo avuto questa che chiamo grandinata mondiale, una differenza che la grandinata che ci portò via tutto quando eravamo contadini non fece morti, questa ha fatto morti, ma è una cosa fortemente temporale, violenta ma congiunturale. Quindi io credo che recupereremo la seconda parte dell'anno, ma più che altro sono molto molto positivo per quello che riguarda il 2021 e il 2022 e gli anni a venire, perché veda, nel 2008, quando ci fu la crisi, non avevamo l'idea di... fallivano le banche, io sono andato a ritirare i soldi di mio babbo, 16.000 euro, per la paura lui. Adesso invece le banche sono forti, gli stati hanno messo soldi molto, molto, molto consistenti, quindi questo ci ridarà la possibilità di ripartenza. È chiaro che a corto siamo in difficoltà, purtroppo però non è una guerra, perché siamo tutti dalla stessa parte, e io dico non dobbiamo prenderla con nessuno, è il creato che ci ha mandato questa grandinata, quindi cerchiamo insieme di aiutarci per ripartire. Per ripartire, secondo lei, sì, servirà anche cambiare comunicazione? Mi spiego, il mondo del lusso prima era grandi scintillio, influencer, blogger che diventavano spaventosamente ricche e popolari sul nulla. Adesso si dice che con il Covid-19 la gente ha imparato a dare peso alle cose e a ascoltare gli esperti. Il mondo della moda ha dato dei segnali in alcuni casi, penso all'immediata azione di Giorgio Armani, penso al fatto che in tanti vi siete prodigati con importanti donazioni, ma anche mettendosi a fare le mascherine o i disinfettanti. Se lei dovesse fare una previsione, che cosa va in soffitta di quel mondo scintillante di prima? Ma va in soffitta molte cose, come sempre, no? Noi in questo momento viviamo uno stato d'animo abbastanza, diciamo, doloroso, anche se questa eclisse sta per passare, no? Quindi abbiamo bisogno di più garbo, di gentilezza, come dicevo prima. Abbiamo bisogno di comprensione, non possiamo volgere le spalle alla povertà. E poi c'è un grande tema, guardate. Io credo che coloro che compreranno adesso si informeranno dove è fatto, come è fatto. Abbiamo recato danni all'umanità o no? Questa cosa qui si può portare, si può restaurare, si può riutilizzare. Potremmo non consumare il creato, perché io credo che questo sia un grande tema, una disputa fra il creato e la terra, e la terra ci ha teso una mano e noi dobbiamo dargliela, perché non sempre io credo che l'uomo possa pensare di governare tutto ciò che il creato, che il creato ci manda. Quindi lo trovo positivo sotto questo punto di vista, non dobbiamo aver paura, guardi, io penso che adesso abbiamo bisogno di idee, di coraggio, di umiltà e di ascoltare le persone che sono in grande difficoltà, specialmente coloro più bisognosi. Torno a dire, non dobbiamo volgere le spalle alla povertà, questo è il grande tema. Senta, Cucinelli, sono sempre io, Spezia, quello gretto. È soddisfatto i provvedimenti del governo? Cioè, le sembra che bastino per siamo contenere gretti, la crisi? Prego. Ma guardi, io credo che ognuno debba fare il suo mestiere, no? E io penso che noi dobbiamo troppo spesso giudicare gli altri. Io vivo in Italia, voglio essere un'azienda italiana, voglio collaborare con il mio governo e voglio rispettarlo. Io dico che i governi hanno fatto molto, ma non vado nei particolari, ma guardi, okay, ciò che abbiamo fatto con l'Università di Perugia, che ci ha proposto questa grande idea di fare a tutti i ragazzi dell'azienda, 1.000 persone, 1.000 tamponi e 1.000 prelievi di sangue, per andare alla continua ricerca degli asintomatici. Questo è loro, 4 studiosi scienziati, studiano questi tamponi. Questo mi piace molto, ci mette in condizioni di lavorare in un'atmosfera diversa. È chiaro, una raccomandazione la vorrei fare. Facciamo molta, molta attenzione, perché gli asintomatici sono dietro l'angolo, specialmente nella parte più giovane. Quindi, grazie all'università, riusciamo in qualche maniera a lavorare avendo fatto questi doppi test che fra 15 giorni ripeteremo. E poi facciamo anche dei test ai paesani, coloro che hanno in qualche maniera desiderio, perché chiaramente viviamo con un po' di paura, no? Allora, grazie a Brunello Cucinelli. Se non hai altre domande, Maria, per Cucinelli. No, mi sembra interessante questa idea di continuare a fare i test, cioè non si finisce adesso. Speriamo che possa essere un'idea che si diffonde, compatibilmente con i costi che questo comporta, anche in altre aziende. Grazie, Brunello Cucinelli, buona giornata. Grazie a voi. Cucinelli, grazie e mi saluti l'Umbria, che mamma mia, quanto mi manca, quanto mi manca. Una pausa. 24 mattino. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per gli sms, messaggi WhatsApp, anche audio, l'800-24-0024 se volete intervenire in diretta con una notizia arrivata nella notte, ossia il via libera da parte della provincia autonoma di Bolzano all'apertura dei negozi a partire da domani, quindi un po' di fughe in avanti come quelle che chiedono un po' tutte le regioni italiane, a partire dal Friuli Venezia Giulia. Massimiliano Fedriga, il presidente, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Maria. Buongiorno Fedriga. Ma senta, a proposito di consentire i trasferimenti da regione a regione, che è una cosa che interessa molto, prima Simone manifestava nostalgia per la sua Umbria. Secondo lei è possibile prevedere quando sarà possibile spostarsi di regione in regione, magari in quelle che hanno avuto meno problemi in questi mesi? Beh, guardi, intanto penso che il problema sia reciproco, cioè da dove vieni e dove vai, perché chiaramente se uno si sposta da una regione con più problemi, dove ci sono meno problemi, rischia anche il processo inverso. Detto questo, proprio ieri nella conferenza Stato-Regione abbiamo sottolineato che la posizione di tutte le regioni è quella ovviamente di che il governo faccia una valutazione su questo. Io ipotizzo che per giugno questo lo si potrà fare. Noi ci stiamo occupando, come i giornali ne parlano in modo abbondante oggi, invece di tutta quella fase interna, diciamo, ai territori regionali, e quindi fare un'ipotesi sempre in modo collaborativo col governo per poter ridare fiato all'economia e ovviamente al contempo mantenere un principio fondamentale, che è quella delle misure di sicurezza che è necessario mettere in campo per contenere la diffusione del virus. Voi volete ripartire lunedì, riaprire tutto, praticamente tutto, già questo lunedì? Non tutto, noi abbiamo fatto una proposta penso molto responsabile, abbiamo detto ripartiamo con il commercio a dettaglio e dal 18 invece le attività mancanti, ovviamente anche con due consapevolezze: la prima è che dobbiamo tenere un tessuto economico che oggettivamente sta soffrendo moltissimo e dare anche dei segnali di fiducia ovviamente ai cittadini, anche a quei piccoli imprenditori che stanno soffrendo questa crisi che si è trasformata in crisi economica pesante in modo incredibile. E su questo, proprio su un settore che è quello del commercio a dettaglio, che è già aperto in alcuni settori, perché ricordo che le regole che il governo giustamente ha messo per i negozi che vendono abbigliamento per bambini o le librerie possono valere anche per gli altri. Immagino che comprare una pentola non sia diverso che comprare un libro con le stesse regole. Permettiamo lunedì di poter partire con quella fascia di diciamo di imprenditori che sicuramente è pronta per garantire la sicurezza ai cittadini. Maria. Uno dei punti che sono fondamentali per l'economia del nostro paese riguarda il turismo. Citavo ieri un articolo sul Times di Londra che racconta come il commissario al turismo Thomas Byers annunciasse una specie di negoziato in corso tra la Germania e paesi come la Francia, l'Austria, il Belgio, la Polonia, tutti raggiungibili via auto dalla Germania e quindi tutti aperti al turismo di quest'estate. L'Italia in questo senso come si sta muovendo? Perché sarebbe importante anche per noi far parte di questo negoziato. Guardi, cosa ci può dire? È fondamentale ovviamente farne parte. Le faccio un esempio, ovviamente io non ho competenze di rapporti con altri paesi europei, giustamente come regione, però ho parlato sia con il governatore della Carinzia, che fa parte dell'Euroregio con il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, e con il presidente sloveno, facendo presente ovviamente che noi siamo molto interessati ad entrare in accordi di questo tipo. Detto questo, mi sembrerebbe molto particolare che l'Europa e i paesi europei decidessero i loro cittadini dove mandarli in vacanza. Voglio dire, chi rispetta le misure di sicurezza, si muove in sicurezza, arriva in un posto dove la sicurezza è garantita, mi sembrerebbe, ecco, rispetto a magari a paesi che sono il cardine dell'Unione Europea, prendiamo appunto la Germania, che si andasse a comportare in questo modo, perché vorrebbe dire di fatto, anche in questo caso, anche nel settore turistico, l'annullamento dei principi fondamentali dell'Unione Europea stessa. Quindi ecco, userei cautela se fossi in loro a fare, diciamo, affermazioni o accordi di questo tipo. Accordi come quello con la Croazia. Ascolti Federica, voglio tornare un attimo sulla questione aperture e chiusure, perché veramente non si riesce a capire, e anche ieri voi regioni avete fatto un documento unitario su questo, come mai si debba ripartire tutti nello stesso momento e tutti nello stesso modo. Insomma, i dati della Lombardia, e lo dico con dispiacere perché ci vivo, i dati della Lombardia di ieri sono notevoli in termini di contagi, i segnali che arrivano su questo fronte non sono particolarmente positive. Lo stesso presidente Fontana oggi dice: occhio, state attenti, vi state muovendo troppo, eccetera eccetera. Insomma, forse è il caso di iniziare a pensare a qualcosa di differenziato, o no? Guardi, il documento che abbiamo firmato la scorsa settimana, abbiamo mandato al governo 13 governatori, va proprio nella direzione da lei, diciamo, auspicata, nel senso che abbiamo detto: ridiamo alle regioni nella fase 2, diciamo, la capacità di fare le scelte sia più restrittive come adesso, ma anche invece meno restrittive, per uniformarle non soltanto alla questione del contagi, che ovviamente è determinante, ma per esempio anche alle diverse necessità che hanno le stesse regioni al loro interno. Perché io le faccio un esempio, lei ha fatto l'esempio della Lombardia, immagino che anche semplicemente per la mobilità, per la vita quotidiana, per raggiungere il posto di lavoro, è diversa la situazione a Milano rispetto a un paese delle valli bergamasche. Quindi le regioni che hanno ovviamente un rapporto molto diretto col territorio, conoscono molto bene le esigenze del territorio, e oltretutto sono competenze sancite da Costituzione, che sono molte sono in capo alle regioni, addirittura alcune in maniera esclusiva, gli venga ridata la possibilità all'interno di un quadro, e questo anche abbiamo scritto, deciso dal governo nazionale, che condividiamo, perché figuriamoci, noi stiamo veramente avendo una posizione assolutamente collaborativa e positiva, ma all'interno di questo quadro ogni singola regione possa muoversi rispetto a queste esigenze, sia pandemiche sia della conformazione territoriale urbana. Senta Federica, sul tema, sull'altro tema, diciamo, caldo di queste ore, vale a dire la regolarizzazione, sia pure solo per 3 mesi, di migranti che possano essere utilizzati nei campi. Ci sono posizioni diverse. Leggevo appunto oggi sul quotidiano La Verità che gli stessi rappresentanti del mondo dell'agricoltura sono dubbiosi sull'efficacia di una regolarizzazione. Le chiedo, tra fine aprile e inizio maggio sono arrivate illegalmente 150 persone attraverso la rotta balcanica. Secondo lei il flusso aumenterà col passare delle settimane? Le persone dovranno fare quarantena? E come state risolvendo, se in Friuli lo avete, il problema appunto della raccolta di frutta e di ortaggi? Per quanto riguarda la questione agricoltura, regolarizzazione, io credo, mi sembra strano, c'è stata una forte chiusura verso la proposta di voucher. Ricorderà, c'è stato un dibattito anche parlamentare su questo, sono stati bocciati emendamenti dell'opposizione, e dall'altra si propone la regolarizzazione degli irregolari. Io penso che sia una scelta sbagliata, e penso che sia una scelta non dettata dalle esigenze del mondo agricolo, ma evidentemente da una legittima, seppur non condivisibile dal mio punto di vista, scelta di carattere politico. Per quanto riguarda invece gli ingressi dai confini, io sono molto preoccupato, l'ho fatto presente anche il ministro Morgese, che su questo è impegnata, devo dire, anche in modo determinato, l'ho sentita al telefono, quindi in modo informale, però in modo determinato a darci una mano rispetto a fermare gli ingressi di immigrati regolari, soprattutto poi in un periodo di pandemia, mi sembra veramente qualcosa di estremamente delicato e pericoloso. Già normalmente mi sembra assurdo che un paese che non è confine dell'Unione Europea via terra diventi di fatto meta e transito di immigrati regolari che passano prima in altri paesi europei. In secondo luogo, ad oggi, così le do una risposta rispetto alle quarantene, noi, finita la pandemia avrò una soddisfazione, seppur minima, però quando io proposi ancora diverse settimane fa, semplicemente quello che veniva già fatto per chi arriva irregolarmente via mare, ho detto mettiamo in quarantena queste persone. Sono stato attaccato in modo feroce, dicendo che sono un razzista, che sono xenofobo, che cosa penso all'immigrazione in quel momento. Sta di fatto che oggi il governo, anche nel nostro territorio, sta facendo quello, giustamente. mettendo in quarantena chi entra illegalmente. È chiaro che la situazione ottimale sarebbe che gli ingressi regolari non ci fossero, ma è altrettanto vero che perlomeno andando in quarantena cerchiamo di garantire non la legalità, perché ovviamente questi entrano illegalmente, ma perlomeno la salute, cercando di confinare queste persone per un periodo congruo, non rischiando che magari, provenendo da paesi dove anche il sistema sanitario sono decisamente più deboli, possano portare qui magari nuovi focolai rispetto alla situazione già difficile che stiamo vivendo. C'è ancora chiunque arrivi da un altro paese in Italia in questo momento, non soltanto i migranti. Non solo i migranti, tutti. Ma infatti pensi la contraddizione, c'era per chiunque arrivasse da qualsiasi paese regolarmente e non per chi veniva irregolarmente. Finalmente almeno c'è, almeno su questo, un'equiparazione. Senta, mi faccia tornare sul tema di prima, però virando lievemente sull'aspetto politico, ossia insomma, le scelte del governo sono state sicuramente anche, Federica, condizionate dalle regioni e presumibilmente anche dalla stessa regione Lombardia, cioè quando siamo andati avanti con, diciamo, con il lockdown complessivo, un pezzo di tutto questo c'è stato sicuramente, un pezzo di richiesta da parte della regione Lombardia. Quando siamo adesso che le cose si stanno liberando, forse la Lombardia non potrebbe, e ripeto, cioè non è nei miei auspici, però insomma i dati in questo momento ci indicano qualche fronte di preoccupazione, e però no, il governo procede unitariamente perché c'è una richiesta da parte di regioni, no, come di una regione come la Lombardia, di procedere unitariamente. C'è un elemento di questo tipo, c'è un elemento di pressione nei confronti del governo? Fortunatamente devo dire le regioni hanno fatto pressione, ma non parlo di altre regioni, ma parlo della mia. Io ho fatto la prima ordinanza insieme al ministro Speranza, su mia richiesta, forte richiesta ovviamente, perché questa non era, diciamo, nei piani, di entrare in un periodo di chiusure forti già prima di avere il primo contagio. La settimana successiva ho firmato da solo un'ordinanza per chiudere scuole e università, addirittura sentendomi le accuse dicendo che stavo facendo un danno al Friulense Giulia. Risultato oggi, i dati della mia regione, non sicuramente dovuto assolutamente all'ordinanza, anzi la maggior parte dovuto al comportamento rigoroso dei cittadini di questa regione, che ringrazio, abbiamo dei dati che soprattutto in un contesto come quello del nord Italia sono molto buoni, sempre ovviamente siamo sotto pandemia, quindi non bisogna rilassarsi, ma sono dati molto buoni, potete vedere siamo l'unica regione del nord che anche la Fondazione Gimbe certifica, paragona quelli del sud, siamo in quella cosiddetta area verde, dove contagi, aumento di contagi sono visti in modo diciamo tranquillizzante. Ma penso, io credo che la strategia dovesse essere stata quella, doveva essere quella, cioè chiudere subito tanto, in modo forte e determinato, e riaprire prima. Cioè prima il virus, questo non è che mi sono sognato io la notte perché ho una scienza infusa, semplicemente guardando quello che hanno fatto in Cina, cioè le chiusure forti sono quelle che danno i risultati prima e garantiscono maggior sicurezza. Invece noi abbiamo chiuso a rilento in Italia, con l'economia che comunque non è stato d'aiuto neanche all'economia, perché comunque barcollava e non riusciva ad avere le risposte, e apriamo ancora più a rilento. Ecco, penso che la strategia forse inversa sarebbe stata più determinante e più avrebbe dato risultati migliori sia dal punto di vista sanitario che da quello economico. Maria, se non hai altre domande... La strada cinese e non la strada che hanno preso altri paesi, per esempio anche in Francia le aperture sono graduali, adesso l'11 maggio riaprono gli esercizi commerciali e in parte le scuole, le aziende sicuramente, ma non riaprono ristoranti, bar e ovviamente non riaprono nemmeno i grandi musei. La strategia graduale viene assunta anche da altri paesi. Ma guardi, nessuno, neanche noi stiamo chiedendo tutto e subito, però penso che noi dobbiamo mettere in campo misure di buon senso che siano comprensibili e condivise dai cittadini, ad esempio l'apertura dei negozi del commercio al dettaglio è una di queste, perché altrimenti io sono convinto una cosa: in questo momento non abbiamo l'alternativa se tenere tutti a casa, tenere tutto chiuso, aprire tutto e far uscire tutti. C'è una tensione sociale nel paese, in particolar modo in quelle persone, in quelle fascia di cittadini che hanno vissuto in modo particolare la crisi anche dal punto di vista economico, che c'è un sistema sociale che rischiamo di non tenere più. Perché hanno funzionato le chiusure nel momento di lockdown? Perché erano condivise dalla comunità. Quando si fanno queste scelte che sono estremamente forti, al limite addirittura delle libertà costituzionali che è necessario garantire, hanno successo se c'è una condivisione da parte dei cittadini. Oggi i cittadini, se noi continuiamo ad andare avanti a prescindere, tenendo chiuso, non comprendono più. Infatti noi dobbiamo adesso passare dalla stagione dei divieti, non puoi fare le cose, alla stagione delle regole, come devi fare. Però lei non ha risposto alla domanda di Simone Spezia sulla pressione che la Lombardia sta esercitando per non rimanere l'unica regione che chiusa. Traduco e sintetizzo. Guardi che il presidente Fontana ha firmato quel documento di cui le parlavo prima. Non ha detto riapriamo a prescindere, chiudiamo a prescindere. Ha detto permettiamo alle regioni, rispetto alle necessità di quella regione, alla situazione in quella regione, di poter fare le scelte più utili. Quindi assolutamente in modo responsabile. Stessa l'ha firmata anche il Piemonte. Anche il Piemonte è in una situazione difficile dal punto di vista pandemico. Ma non è che stiamo dicendo coscienti, andiamo in giro, facciamo qualsiasi cosa, oppure teniamo tutto chiuso a prescindere. Bisogna uniformarsi, come giustamente veniva ricordato anche da Simone Spezia, rispetto alle necessità del territorio in quel preciso momento, così da poter dare le risposte più mirate, altrimenti rischiamo di fondere le cose e appunto rendere. Capite che le misure, se noi pensiamo che le misure di un territorio particolarmente colpito possono essere applicate alla Calabria e al Molise, che invece i contagi sono bassissimi, come possiamo spiegare a quei cittadini funziona così tutto? Bisogna condividere con i cittadini e penso che i presidenti di regione non vogliono avere protagonismo, semplicemente cercano di rispondere alle esigenze di un territorio contemperando l'esigenza economica lavorativa con quella della salute, che devono marciare insieme, ed è questa la responsabilità della politica, riuscire a fare sintesi da queste due esigenze che sono fondamentali entrambe. Grazie Massimiliano Federica, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro. Della Lega, Anna Ascani, viceministro dell'istruzione, vicepresidente del Partito Democratico. Ascani, buongiorno, eccoci. Buongiorno, con noi. Buongiorno. Senta, si fa fare subito una domanda su questa storia degli ingressi scaglionati nelle classi, cioè ogni classe, una classe ogni quarto d'ora, questa sarebbe più o meno l'idea, la cosa che abbiamo letto. Sai che ci sono scuole che hanno 40 classi, che si finisce alle 18? Ho letto le indiscrezioni, diciamo che non è proprio così e che gli scenari ufficiali usciranno, come ha detto bene anche il professor Bianchi, a giorni, e saranno tre tipi di scenari a seconda dell'andamento della pandemia. Dopodiché un minimo di scaglionamento ci sarà, perché è ovvio che noi, se non consentiamo gli assembramenti... Però non sarà una classe ogni quarto d'ora, perché sennò diventiamo... Diciamo che nei plessi più grandi così si rischia di far entrare gli ultimi a ridosso dell'orario di uscita, ovviamente, quindi non sarà così. Però quello che invece succederà è che non si potrà entrare e uscire tutti insieme, perché se dobbiamo evitare gli assembramenti all'interno delle classi, li dobbiamo evitare anche al momento dell'entrata e dell'uscita, altrimenti avremo annullato ogni sforzo. Maria, prego. Senta, viceministro. No, aspetta Maria, abbiamo un problema di collegamento. Sì. Adesso recuperiamo Maria Latella. Intanto le faccio una domanda io. Allora, posto che le scuole in questo momento restano chiuse e il governo ha fatto questa scelta, se ne è discusso molto e se ne continua a discutere e se ne continuerà a discutere. Innanzitutto la prima, c'è una possibilità di riapertura delle materne e dei nidi, quantomeno? Come ha detto il Presidente del Consiglio, sperimentalmente noi vogliamo poter riaprire a giugno e luglio dei servizi educativi per l'infanzia. Abbiamo inviato al Comitato Tecnico Scientifico una proposta con la numerosità dei gruppi, la moltiplicazione degli spazi e ovviamente la riduzione degli utenti, con la priorità a quelle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano in presenza e alle famiglie con delle fragilità particolari. Aspettiamo una risposta, io l'ho già detto in un'intervista qualche giorno fa, un altro no sarebbe un danno grave per questi bambini piccoli e piccolissimi che in questi due mesi hanno perso gran parte della loro socialità. Sono due mesi che non vedono magari un loro coetaneo, mi sembra poco ma è moltissimo a quell'età, e quindi dobbiamo assolutamente restituirgli questo pezzo di socialità che l'epidemia gli ha tolto. Maria, prego, ci sei tornata. Dobbiamo anche restituire Ascani la possibilità di recuperare i gap di formazione che sono stati persi in questi mesi, perché sicuramente in molti hanno potuto seguire le lezioni online e gli insegnanti si sono molto spesi per questo, ma rimangono delle lacune e cito sempre quel titolo drammatico del Daily Telegraph di due domeniche fa, sarà un disastro per una generazione. A questo proposito le chiedo, siccome a settembre probabilmente bisognerà studiare delle formule per farli tornare, i nostri studenti, fisicamente in classe, ci può spiegare meglio come questo potrà accadere senza che ci sia, come dire, metà classe in remoto, metà classe fisicamente, perché c'è stata un po' di confusione su questo? Sì, allora, intanto i recuperi noi abbiamo previsto nel decreto scuola che inizino a partire dal 1° di settembre, cioè che si cominci a lavorare su quelle fragilità che saranno evidenziate anche dalle insufficienze, perché si è a lungo parlato di sei politico, in realtà non c'è nessun sei politico, semplicemente sarà data la possibilità di recuperare quelle insufficienze all'inizio del prossimo anno scolastico, primo perché ovviamente diciamo che non è colpa dei ragazzi, tantomeno dei loro insegnanti che hanno fatto uno sforzo eccezionale, come lei giustamente ricordava. Per quello che riguarda settembre, lo dicevo prima, oggi c'è una bella intervista del professor Bianchi che col comitato sta lavorando proprio su questo. Gli ordini di scuola non sono tutti uguali, ed in particolare i bambini più piccoli e anche direi i ragazzi della scuola secondaria di primo grado hanno la necessità assoluta di tornare a scuola in presenza, e non solo perché c'è un tema di famiglie che dovrebbero altrimenti restare a casa con loro, ma perché il percorso educativo di questi bambini e ragazzi ha a che fare tutti gli altri con la relazione, con la fisicità, con la presenza. Ecco, noi per questi gruppi immaginiamo certo una divisione delle classi, perché non possiamo avere classi numerose come sono oggi, ma piuttosto che tenerne una parte a casa, una parte a scuola, vorremmo moltiplicare le attività e quindi ampliare l'offerta formativa, facendo spazio nei curricula italiani a quelle attività che troppo poco ne hanno trovato in questi ultimi anni, e anche una sfida per migliorarsi in questo senso. Quindi la musica, l'arte, lo sport, la creatività digitale, i laboratori, anche finanziaria anche. Ascani, l'educazione finanziaria, oggi i giornali riferiscono che i nostri ragazzi sono a zero di educazione finanziaria. Abbiamo presentato un rapporto insieme all'Invalsi proprio su questo, anche perché appunto l'educazione finanziaria è un elemento fondamentale di comprensione dell'ambiente nel quale viviamo e nel quale questi ragazzi sono immersi. Quindi sicuramente diciamo che di possibilità di ampliamento dell'offerta formativa ce ne sono tante. Sì. Naturalmente noi avremo bisogno dei comuni e degli enti locali, abbiamo attivato una cabina di regia che riconvocheremo nei prossimi giorni con questa finalità, perché ci serviranno più spazi per queste attività e naturalmente anche delle professionalità che possano accompagnare bambini e ragazzi in questo tipo di esperienze. La ringraziamo, grazie a Anna Ascani, vice ministro dell'istruzione, vicepresidente del Partito Democratico. Dobbiamo chiudere qua, siamo andati un po' lunghi, poi magari una volta torniamo a chiamarla a parlare un po' più in generale di questo tema della gestione dell'infanzia. Anche di elementari non abbiamo parlato, abbiamo parlato molto di materno e nido, ma non è che i genitori nei quali entrambi lavorano e hanno i figli alle elementari non hanno un problema, anzi ce l'hanno. Cara Maria, ci sentiamo lunedì, lunedì. Ci sentiamo lunedì alle 8:20. Anzi, no, con te ovviamente c'è nessuna è perfetta. Domenica, insomma, lo diciamo. Eh sì, parleremo proprio di scuola anche domenica. Allora, bene. Ci fermiamo qua. Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Margherita Ine e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Noi ci risentiamo lunedì, sì, ma alle 6:30. Un buon fine settimana da Simone Spezia. Ciao.